get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. E allora, buonasera, buonasera a voi. Quella che state per ascoltare è la nostra 210ª trasmissione e per chi ci segue con più continuità potrà sembrare strano che la trasmissione di oggi, che anche la trasmissione di oggi sia in diretta. In verità la scaletta di stasera è quella che avreste dovuto ascoltare martedì scorso, perché già la settimana passata la nostra graditissima ospite avrebbe dovuto farci compagnia, solo che all'ultimo momento un imprevisto non le ha permesso di raggiungerci qui alla radio e quindi abbiamo dovuto fare in tutta fretta un altro tipo di trasmissione. E comunque alla luce dei fatti possiamo dire che comunque non tutti i mali vengono per nuocere, perché proprio martedì scorso abbiamo scoperto le lodi di una nostra compagna che presa un po' alla sprovvista, a dire il vero, si è trovata a dover fare una trasmissione insieme a me e a Rosina. E diciamo che se l'è cavata benissimo. Sto parlando di Francesca, che ci ha deliziate raccontandoci la favola di Cenerentola, riveduta e corretta chiaramente in chiave lesbica. Un successone. Ma torniamo alla trasmissione di stasera. Allora, io sono Caterina, con me in studio c'è Lucilla e di nuovo con noi stasera c'è Francesca, è arrivata anche Elena, l'ho vista adesso, e poi c'è la nostra ospite Nilda Noemi Actis Goretta, che noi chiameremo molto più semplicemente Munu. Munu è un'artista argentina e non parlando noi la sua lingua abbiamo chiesto aiuto a Monica Petri, che gentilmente ci tradurrà in simultanea la nostra intervista. A questo punto volevo soltanto dire due parole che renderanno un po' più visibili le motivazioni che ci hanno spinte ad avere con noi Munu. Faremo una sua brevissima presentazione e spiegheremo, per chi non lo dovesse sapere, ma francamente ne dubito, diremo che cosa è l'arte di cui Munu si occupa, cioè i mural. Allora, cominciamo un attimo facendo una piccolissima presentazione di Munu. Un attimo che devo girare il foglio. Allora, Munu è una pittrice argentina di lunga esperienza, ha realizzato numerosi lavori nel proprio paese, in Brasile, a Cuba, in Venezuela e anche qui in Italia. Il 15 luglio del 2006 ha inaugurato nel comune di Rodallo, in provincia di Torino, un mural dedicato ai temi dell'emigrazione in Argentina. Munu, oltre ad essere un'importante pittrice nel rispetto della migliore tradizione artistica latinoamericana dei murales, è una vera animatrice che è capace di promuovere il lavoro collettivo e il gusto del fare le cose insieme. Ha una lunga esperienza nella creazione di murales con gruppi di bambini, adolescenti ed adulti. Munu è una delle donne autrici di Ese Inferno, libro tradotto in Italia da Stampa Alternativa, ed è un testo non qualsiasi, nel quale cinque donne che sono state imprigionate nell'ESMA, una delle carceri segrete dell'Argentina del periodo della dittatura, hanno riportato i dialoghi scaturiti dai loro incontri 20 anni dopo essere state delle desaparecido. Allora, siccome una delle motivazioni per le quali Munu è ospite è anche perché ci parli del suo lavoro, veramente adesso diremo soltanto due parole su che cos'è il mural. Allora, il mural è un grande affresco dipinto in spazi esterni. È una tipica espressione latinoamericana nella quale si fondono arte per il suo essere opera unica e irripetibile, arte pubblica per il suo essere dipinto su facciate esterne di edifici e anche vita sociale per il suo riprodurre scene significative della vita comune. Ma è anche molto di più. È una testimonianza del presente ed una mostra permanente all'aperto che contribuiscono a definire l'identità del luogo nel quale viene realizzato. Un mural umanizza uno spazio, lo fa più comprensibile, più bello, più significativo, ma insieme ne dichiara aspirazioni e progetti, consentendogli di parlarne con semplicità. Io direi adesso, prima di continuare a spiegare bene le cose che sono state scritte sui mural, mandiamo un piccolissimo stacco musicale, in modo che ci organizziamo per i microfoni, che siamo un po' in ritardo, quindi mandiamo uno stacco musicale e poi cominciamo con l'intervista. Finalmente facciamo questa conoscenza via etere con Munu. E intanto sono tante le domande che le vogliamo fare. Alcune riguardano la sua vita artistica e altre riguardano la sua vita. E sicuramente queste due cose si fondono insieme, no? La vita e la vita artistica sono un tutt'uno. Allora, intanto, siccome noi sappiamo che lei è una testimone dei processi che ancora si stanno svolgendo in Argentina a 30 anni dal golpe, appunto, le chiediamo come stanno andando questi processi in Argentina ai torturatori, a coloro che hanno, si sono macchiati di massacri e nefandezze, e qual è stata la posizione del governo, che cosa ha fatto il governo in questo momento, da quando è finito il golpe ad oggi, per prendere i torturatori e per processarli. Quindi come stanno andando le cose? Buenas tardes. Creo que desde el punto de vista de cómo es la historia argentina respecto a las dictaduras y a los torturadores. Penso che rispetto al punto di vista di qual è la storia argentina della dittatura e dei torturatori. Es muy interesante porque en los países vecinos, lamentablemente, también hubo dictaduras. È molto interessante perché nei paesi vicini purtroppo anche ci fu una dittatura. Y les cuesta más trabajo, les ha resultado más difícil arribar a hacer juicios a estos dictadores. E gli riesce più difficile, gli comporta più lavoro arrivare ai processi a questi dittatori. En Argentina no ha sido fácil, ha habido leyes a favor, en contra, alzamientos militares nuevamente, pero bueno, en este momento estamos comenzando o recomenzando los juicios que hace 30 años habían comenzado. In Argentina non è stato facile, ci sono state leggi a favore, leggi in contro, ci sono state nuove sollevazioni militari, ma adesso dopo 30 anni i processi sono ricominciati. Hay que pensar en general que las fuerzas armadas argentinas y las fuerzas policiales son las mismas de antes, las mismas que han estado en estas dictaduras, aunque las figuras máximas, por supuesto, han sido quitadas de estas fuerzas armadas, ¿no? In generale bisogna pensare che le forze armate e di polizia sono le stesse di allora, le stesse della dittatura, anche se ovviamente coloro, cioè la parte più alta di queste forze armate è stata tolta di lì. Entonces debemos hacer los juicios con estas mismas fuerzas armadas que teníamos y la justicia va haciendo lo que puede. En general todos vamos haciendo lo que podemos, pero creo que hemos hecho bastante. Quindi dobbiamo fare i giudizi con quelle stesse forze armate ancora presenti. La giustizia fa quello che può. Tutti stiamo facendo quello che possiamo in generale. No es fácil, aunque estamos en democracia, no han desaparecido totalmente los amigos de la dictadura, y a las personas que vamos a testimoniar hay amenazas, hay un compañero desaparecido hace más de un año, es así, es un riesgo testimoniar, pero ha sido un riesgo estos 30 años que también hemos estado testimoniando. Non è facile, anche se stiamo in una democrazia. Ma non sono scomparsi certi resti, e ai testimoni ci sono minacce. C'è stato un compagno che è scomparso un anno fa, quindi appunto è un rischio testimoniare nei giudizi. Cioè quello che ci stai dicendo è che un testimone ora, un testimone dei processi, uno che era sparito durante il golpe, è nuovamente sparito mentre testimoniava? È stato disparito, sì, alla fine del juicio en el cual estaba testimoniando. Una persona che in questo momento tiene 77 anni. si è scomparso nel momento in cui stava testimoniando, una persona che oggi ha 77 anni. Julio López. Julio López. Ma era stato minacciato? Había sido amenazado. No, él no había sido amenazado. No, nunca antes había denunciado. Esta era la primera vez que concurría a un juicio a denunciar. Y lo que sí había hecho, él es un muratore, toda su vida ha laborado de muratore. Ha estado secuestrado durante... había estado secuestrado en la dictadura durante 6 o 8 meses. Después lo dejaron nuevamente en libertad y continuó trabajando en su oficio. Non era stato minacciato, era anche la prima volta che attuava come testimone in un giudizio, faceva il muratore, aveva fatto il muratore per tutta la vita, era stato sequestrato per un periodo di 6-8 mesi e poi era stato rilasciato. Y los hijos cuentan que él no hablaba de esta experiencia, ellos tampoco les preguntaban, pero después que ha desaparecido nuevamente han encontrado un pequeño cuaderno. I figli dicono che non parlava di questo avvenimento, i figli nemmeno gli chiedevano niente, però dopo che lui è scomparso di nuovo hanno trovato un piccolo quaderno donde el padre había ido anotando todas las cosas que se recordaba de y las personas que había visto, tanto secuestradas como de los torturadores. Dove il padre aveva scritto le cose che si ricordava e dove aveva scritto le persone di cui si ricordava, sia i sequestrati che i torturatori. Evidentemente él se como que se preparaba para alguna vez estar en un juicio, testimoniar, que no sabía si esto iba a suceder. Durante muchos años ha estado escribiendo sin saber si alguna vez lo iba a poder testimoniar. Lui evidentemente si preparava per un giudizio nel quale avrebbe potuto testimoniare. Durante molti anni si era continuato a preparare, ma non sapeva se questo sarebbe realmente avvenuto, se avrebbe partecipato a un processo. Sì, quando noi ci siamo incontrate, Manu, e abbiamo parlato insieme, tu ci hai detto anche che per te è molto difficile oggi, a distanza di tutti questi anni, ancora dover testimoniare per questi processi, anche perché non ci sono state leggi speciali in Argentina per poter accorpare, riunire i processi, ma ognuno di voi, ogni testimone, deve testimoniare per ogni torturatore. Quindi la cosa, da quello che tu ci hai detto, è lunghissima. Mm-hmm. Evidentemente, quando io dije, todos hacemos lo que vamos pudiendo, también esto es, también implica esto, ¿no? Evidentemente, cuando digo que tutti facciamo quello che possiamo, implica anche questo, ¿no? Que la justicia tiene una forma de funcionamiento y esto ha sucedido hace 30 años. En el medio se han abierto miles de causas. La giustizia ha una sua maniera di funzionare, tutti questi fatti sono successi 30 anni fa, nel frattempo si sono aperte migliaia di cause. Entonces las causas cada una ha seguido su proprio processo. Quindi ogni causa ha seguito un suo proprio processo. Por lo tanto, no es que de cada centro clandestino de detención hay una sola causa y entonces uno va y declara una sola vez. Quindi non è che per ogni 100 clandestino di detenzione e tortura c'è una sola causa e quindi uno va e fa il suo la sua testimonianza una sola volta. Sino que muchas personas han abierto causas denunciando la desaparición de, en general, de sus hijos o ahora incluso de sus padres o de los niños que nacieron en cautiverio y con esta información cada vez se han abierto causas y ahora hay que declarar ante todas estas causas. Molte persone nel frattempo hanno iniziato cause per sapere dove erano finiti i propri figli, i padri e adesso anche i bambini nati durante la prigionia e per ognuna di queste cause bisogna ritornare a fare la propria dichiarazione. Bueno, pero tanto la justicia como el gobierno, como las organizaciones de derechos humanos, como los que vamos a testimoniar, estamos tratando de pidiendo que estas causas se junten y todo sea más rápido, que será mejor para todos, ¿no? Sia quindi, però sia la giustizia, sia il governo, sia l'organizzazione dei diritti umani stanno chiedendo che queste cause vengano fuse in modo che sia meglio per tutti. Facciamo un piccolo stacco musicale perché sono le leggi dell'ascolto. Ed è una canzone di Violetta Parra. Si intitola La carta. Ok. E la canta Auli Cocco. E mi suggeriscono, io ripeto. Quindi piccolo. Mi mandarono una carta per il correo temprano. E nella carta mi dice che ho preso mio hermano. Y se lastima con grillo por la calle, lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso es un motivo, presa también pues atento. No es justicia. Los hombres te piden pan, plomo, le dan la milicia. Sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento. No te paniqui de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia olvidando mandamientos. Allora, siamo ritornati in onda con le voci e noi continuiamo a fare delle domande a Munu, però se volete partecipare anche voi facendo delle domande, vi ricordiamo che potete telefonare al numero della radio che è 06 49 17 50. Oppure mandare degli sms al cellulare che è 338 41 46 682. Un'altra domanda che vorremmo fare invece a Monù è perché ti hanno arrestata e quando ti hanno arrestata? Bueno, a mí me han arrestado porque yo era una, en los años 70 era una militante política como la gran mayoría de los desaparecidos de Argentina, ¿no? Mi hanno arrestato perché ero negli anni 70 ero una militante politica come la gran maggioranza dei desaparecidos in Argentina. Es verdad que hubo algunos casos que secuestraron y desaparecieron algunas personas que no tenían nada que ver con la militancia, pero tenían muy en claro qué era lo que querían destruir. Si sa che ci sono stati casi di sequestri di alcune persone che non avevano nulla a che vedere con la militanza, però avevano molto chiaro quello che volevano distruggere. Nel anno 76 fu il golpe de Stato della ultima dittatura. A finales de ese golpe, de ese año, perdón, desapareció mi compañero, mi marido. Nel 76 ci fu il colpo di Stato. Alla fine dell'anno 1976 scomparì mio marito. Mio cugino, mi primos. Mio cugino. Y bueno, y todos, cantidades de amigos y de compañeros, se estima, ya todos saben que son 30.000 los desaparecidos y la verdad que no, los que conocí y los que no conocí, todos eran compañeros. Amici, molti amici, si stima que i desaparecidos siano en totale 30.000, in verità devo dire che quelli che conobbi e quelli che non conobbi tutti erano compagni. A me io non ho stato perché, a ver, al comienzo della dittatura e aún antes della dittatura hubo mucha gente arrestada en la cárcel legal, digamos, en la cárcel que establece, que tiene el Estado. Io no, però all'inizio della dittatura, prima, subito prima della dittatura, ci fu molta gente che fu arrestata nel carcere legale, diciamo il carcere normale dello Stato. Esto no quiere decir que estas personas no han sido torturadas y muy maltratadas. Questo non significa che queste persone non siano state torturate o non siano state molto maltrattate. Y algunos han desaparecido, algunos los han matado haciendo simular un intento de fuga. E alcuni sono scomparsi, desaparecidos, e altri le hanno uccisi facendo una simulazione di un tentativo di fuga. Pero de todas maneras la gran diferencia que tenía con la cárcel que se llaman, o sea, los campos o la cárcel clandestina, en una de las cuales yo estuve secuestrada. Pero la grande diferencia que c'era con i campi di concentramento o carcere clandestino, come si può dire, in uno dei quali io sono stata sequestrata. La gran diferencia, repito, era que en la cárcel clandestina desaparecían todos o casi todos. La grande diferencia era que nelle carceri clandestine scomparivano tutti o quasi tutti. En la cárcel legal los que desaparecían o los que mataban eran los menos. Mentre nel carcere legale quelli che scomparivano o quelli che venivano uccisi erano una minoranza. La cárcel legal, aunque intenten aislar a la gente, la familia sabe dónde está el familiar que está detenido, y la persona que está detenida sabe que sigue existiendo en un mundo que funziona. Nel carcere illegale, anche se tentano di isolarti, la famiglia comunque sa dove ti stai trovando, e il detenuto sa che comunque lui si trova in un mondo che continua ad esistere. En la cárcel legal, nadie sabe, ilegal, perdón, nadie sabe dónde uno está. Tampoco lo sabe el que está secuestrado, hasta que, bueno, si está mucho tiempo secuestrado, termina sabiendo dónde se encuentra, ¿no? Mentre nel carcere illegale nessuno sa dove si trova il sequestrato, non lo sa nemmeno la persona che è stata sequestrata, anche se dopo molto tempo che una persona è sequestrata, magari alla fine arriva a saperlo. Pero la extraña sensación de ser un desaparecido, de haber dejado de existir para el resto de la humanidad, es una experiencia que, bueno, uno no olvida nunca, ¿no? Ma la strana sensazione di essere un desaparecido, di avere smesso di esistere per il resto dell'umanità, è una sensazione che uno non dimentica mai. El lugar donde yo estuve desaparecida, se la nombra por las siglas, que se dice ESMA, que es la Escuela de Mecánica de la Armada. Il luogo dove io sono stata sequestrata gli si dà il nome con la sigla ESMA, che è la Scuola di Meccanica dell'Armata. Y se encuentra en el centro de la ciudad de Buenos Aires. No está en el medio de la campaña perdida que nadie oye ni ve. Está en el centro de la ciudad y de la estrada. Si trova nel centro della città di Buenos Aires, non si trova nel mezzo della campagna più sperduta. En la acera de enfrente, en la vereda de enfrente, hay edificios y vive gente, y por la vereda pasan autos permanentemente. Dall'altro lato della strada ci sono palazzi e vive la gente. Sulla carreggiata passano persone e passano macchine. Y en el nosotros estábamos secuestrados un grupo en el sótano en el cual estaba yo. Noi eravamo sequestrati con un gruppo nella cantina. Y las otras personas estaban secuestradas en el altillo. Ah, le altre persone erano sequestrate nella soffitta. Entre el sótano y el altillo había dos pisos donde vivían los oficiales de la Marina. Fra la cantina e la soffitta c'erano due piani dove vivevano gli ufficiali della Marina. A nosotros nos llevaban permanentemente desde el sótano a dormir en el altillo, o nos bajaban a trabajar al sótano. A noi ci portavano di continuo o a dormire nella soffitta, o ci portavano a lavorare nella cantina. Y en la escalera nos cruzábamos con los oficiales que subían o bajaban. E sulla scala ci incrociavamo con gli ufficiali che salivano o scendevano. Nosotros llevábamos una capucha en la cabeza o los ojos vendados. Noi avevamo un cappuccio sopra la testa oppure gli occhi vendati. Llevábamos las manos con esposas. Avevamo le mani con le manette. Y los oficiales veían por la capucha, uno ve hacia abajo y ve que cruza, se cruza con alguien, no, no le ve la cara a los oficiales, ¿no? Cuando uno con il cappuccio incrocia qualcuno, dal basso vede che è un ufficiale, però non gli vede la faccia l'ufficiale. Entonces, en algún momento hubo grupos de oficiales de la Marina, del Ejército, que quisieron decir que los que habían participado de la represión habían sido unos pocos y que los otros no sabían nada. Quindi a un certo punto alcuni ufficiali tentarono di dire che quelli che avevano partecipato alla repressione erano soltanto in pochi e che tutti gli altri non sapevano niente. Bueno, esto realmente no es verdad. Todos sabían qué era lo que estaba sucediendo. Y esto obviamente no es la verdad, porque todos sabían lo que estaba sucediendo. Yo estuve secuestrada en ese lugar durante un año, de mitad del 78 a mitad del 79. Yo sono stata sequestrata in questo luogo per un anno, dalla metà del 78 alla metà del 79. Y nunca hemos logrado saber ni hemos tratado de encontrar la razón por qué cada uno de los que estamos vivos nos han dejado vivos, porque mataron al que estaba al lado y al que estaba del otro lado, y uno nunca sabe por qué a ese sí y al otro no. Nunca siamo arrivati a capire o sapere perché a quelli che ci hanno lasciato in vita, perché ci hanno lasciato in vita, dato che uccidevano quello che ti stava da un lato o quello che ti stava all'altro lato, e non se ne riusciva a capire la ragione. Sì, non credo che ci siano commenti da fare dal racconto di Munù. Io direi, se fosse possibile, di mandare un piccolo stacco musicale, ed è da Hellas e Nosotras, Oci Curiel, e la numero 3, che è Esther Zapatista, e poi passeremo a chiedere a Munù qualcosa sulla sua esperienza artistica. En pasamontañas, cubriendo el rostro, no su palabra. Las que dejaron cocinas, tomaron armas en las mañanas. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad. Indígena eres, color de tierra, mujer fortaleza y dignidad. Mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón. Indígena eres y es tu conciencia la que hace ponerte de cara al sol. Amarran sus verdades con paliacates en sus gargantas, las que hacen invisibles las clandestinas, las no contadas, las del dolor triplicado de mujer pobre, india de nada, las que huellas han dejado borradas todas las distancias. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad. Indígena eres, color de tierra, mujer fortaleza y dignidad. Mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón. Indígena eres y es tu conciencia la que hace ponerte del calzón. Y allá arriba en la montaña se levantaron con sus miradas. En la tierra y en los llanos se oye el grito de sus demandas, pues sus voces llegaron a ser simbologías de lucha y ganas. Construyendo mil caminos se vieron ellas en sus mañanas. Ok, siamo nuovamente qui e allora una domanda che riguarda il lavoro che fa Munu e quindi è a proposito della formazione artistica e delle tue esperienze. Qual è la tua formazione? Devo dire che tengo 62 anni. Wow! Devo dire che ho 62 anni. E non li dimostra, eh? Ma sono bellissima. por lo tanto, desde pequeña, desde niña que he pintado. Quindi è da bambina che ho dipinto. Y cuando ha llegado el momento de la universidad, bueno, he estudiado mural, un estudio, una carrera de 5 años universitario que se llama mural. E quando sono arrivata all'università ho studiato un corso di laurea di murales, un corso di laurea che si chiama murales. Di 5 anni. E tu hai dopo l'università hai cominciato subito a dipingere, a lavorare quindi con i mural, oppure hai interrotto per un periodo? Che cosa è successo, insomma, rispetto alla tua attività artistica? Tengo que decir que yo no puedo pintar desde la angustia, con una sensación de angustia. Yo pinto porque estoy bien, porque me siento bien. Prima di tutto devo dire che io non posso dipingere a partire dall'angustia, dalla pena, io dall'angoscia. Io posso dipingere se mi sento bene. Durante los años de la persecución y de la dictadura y de la desaparición de tanta gente, yo pasaron como 10 años que no pinté. Durante gli anni della persecuzione e della dittatura, io per 10 anni non ho dipinto. Y luego hice un gran esfuerzo para retomar la pintura nuevamente, ¿no? Porque yo sentía que era lo mío, pero era como que no podía dedicarle el tiempo. Dopo ho fatto un grande sforzo per riprendere in mano la pittura nuovamente, perché io sapevo che era il mio, quello che dovevo fare. Y lo primero que hice fue andar nuevamente a un taller, a un laboratorio de pintura de una profesora. La prima cosa che feci fu andare di nuovo in un laboratorio di pittura da una professoressa. E al mismo tempo cominciare a organizzare gruppi di persone, tanto di niños come di adolescentes, come di adulti, per che ellos pintaran. E allo stesso tempo incominciai a organizzare gruppi di persone che potevano essere di bambini, di adolescenti o di adulti affinché loro dipingessero. Se confonde un po' con la nostra traduttora. Bueno. 50 minutos. Muy bien. Va a cobrar doble. Con poco a poco, entonces pude ir retomando los colores, es lo que yo digo, poniéndole color a mi vida, ¿no? Poco a poco ho potuto iniziare a riprendere i colori, o come io dico, dandogli colore alla mia vita. Luego me dedico al mural, porque esto estudié y seguí haciéndolo, y una de las cosas que me gusta mucho hacer es hacer creación colectiva. Poi mi sono dedicata al mural perché è quello che ho studiato, quello che mi piace fare, poi mi sono dedicata a quello che mi piace fare, la creazione collettiva. Es decir, hacer un mural en general son, estoy hablando de cosas de, supongamos, para hablar de una medida media de 7, 8 metros de alto por 20 de largo. Cioè, fare un mural, stiamo parlando in generale di misure come 7 metri di altezza e 20 metri di larghezza. Por lo tanto, en general trabajan muchas personas, desde el muratore hasta los que después trabajamos, después que está el muro refaccionado, ¿no? Quindi in genere ci lavorano molte persone, a partire dal muratore fino a quelli che lavorano quando il muro è già perfezionato. Y es esto que yo decía de hacer una imagen colectiva, que no es una cosa fácil. Se trata no de que una persona hace el diseño y otras vienen también a trabajar al momento de pintarlo o de hacer el mosaico. Questo di fare un'immagine collettiva significa che viene fatta da molte persone, una persona fa il disegno e altre vengono a dipingerlo. No, lo che decía es que no es que una persona hace el diseño y otras vienen a hacer. Allora mi correggo. Non è che una persona fa il disegno e gli altri dipingono, ma sino che il disegno è fatto in forma collettiva. Ma il disegno stesso è fatto in maniera collettiva e questo è difficile. Sì, esattamente. Ma è un desafio veramente bello, no? Poter fare entre todos una imagen. Ed è una sfida veramente bella quella di poter fare fra tutti un'immagine. Allora, noi abbiamo ancora un paio di domande da farti. Una, per esempio, è dove stai lavorando adesso, e quindi il soggetto in questo momento, qual è il soggetto che tu stai dipingendo qui a Roma? E dove? Yo estoy trabajando en el 10º municipio, Cinecittà, con un proyecto que ha sido presentado por la Casa Internacional delle Donne. Sto lavorando nel 10º municipio, Cinecittà, con un progetto che è stato presentato dalla Casa Internazionale delle Donne. En un barrio que se llama me olvidé. Torres Pacata. Piscine della Torre Spaccata, è vero. In un quartiere che si chiama Piscine di Torre Spaccata. Il soggetto del murale sta dedicato a los niños perché sta frente a un parque lleno de niños alla salita della scuola e frente alla scuola. Il soggetto del mural è dedicato ai bambini perché si trova di fronte a una scuola, è dedicato ai bambini che si trovano di fronte alla scuola, escono da scuola. Come si dice? Il titolo del lavoro lo elegirán los, lo pondrán los alumnos de la escuela cuando esté terminado el trabajo. E il titolo del lavoro lo metteranno i bambini della scuola quando il lavoro sarà terminato. Y ellos vienen permanentemente, se acercan al andamio a cuando estamos trabajando y preguntan qué cosas estamos haciendo. Loro vengono continuamente quando stiamo lavorando e chiedono che cosa stiamo facendo. Y yo siempre les pregunto en este italiano perfecto que hablo, que me preguntan dónde vivo los niños. Les pregunto si les gusta. E io gli chiedo nell'italiano, mentre loro mi chiedono diciamo dove vivo, io gli chiedo sempre nel mio italiano perfetto se gli piacciono. Hasta ahora los niños contestan que sí, que les gusta, por lo tanto, para mí eso ya está bien. Finora hanno sempre risposto che gli piace, quindi questo per me già è sufficiente. Ma se al presidente del municipio, alla casa internazionale, non le gusta, lo lamento. E se al presidente del municipio e alla casa internazionale non gli piace, mi dispiace. Senti, Munu, un'altra cosa che ci hai raccontato quando ci siamo incontrate e che a noi è piaciuta moltissimo è stata la tua storia con Nekla, la donna con cui hai fatto un lavoro collettivo, con lei e con altri, ma in particolare tu ci hai raccontato questa esperienza molto, molto singolare, molto carina, di collaborazione e di capacità di entrare in contatto con questa donna mentre voi parlavate due lingue diverse, no? E vuoi raccontarla ancora una volta? Sì, amo raccontarla. Questa donna si chiama Nekla, è una turca che abita alla Germania, a Alemania. Questa donna si chiama Nekla, è una turca che abita in Germania. Y yo la conocí haciendo murales colectivos en Cuba. E l'ho conosciuta mentre stavo facendo murales colectivo in Cuba. Eran varios grupos que trabajaban y en el mío había cubanos con los cuales, por supuesto, hablamos la misma lengua. Y estaba ella que no hablaba nada de español y yo no hablo nada de inglés ni... C'erano vari gruppi e nel mio c'erano vari cubani, con loro parlavamo la stessa lingua e poi c'era lei che io, ovviamente lei non parlava la mia lingua e io non parlo niente di inglese. Una cosa che credo che somos afortunados los que nos dedicamos a las artes, a este tipo de cosas, es que tenemos otro lenguaje para comunicarnos. Una cosa nella quale penso che siamo fortunati noi che ci dedichiamo all'arte è che abbiamo un altro linguaggio per comunicare. Porque cuando estábamos trabajando con los cubanos yo me entendía en la lengua, en la forma de hablar, que discutíamos, porque hacer una imagen colectiva lleva mucha discusión. Cuando estábamos lavorando, por ejemplo, con los cubanos, yo me entendevo parlando, porque c'è mucha discusión cuando se está haciendo un murales colectivo. Pero con Nekla me entendía en la imagen y me entendía mucho más que con los cubanos. Pero con Nekla yo me entendevo sulla immagine e capivo molto di più che con i cubani. Y luego hemos estado casi dos meses trabajando juntas. E poi siamo state quasi due mesi lavorando insieme. Y al fin, yo no sé, Nekla sabía tres o cuatro palabras en español. Alla fine, non so, Nekla sapeva tre o quattro parole di spagnolo. A esa le agregábamos sí o no. A questo aggiungevamo sí e no. Así. Y de esta manera nos hemos contado la vida. e in questo modo ci siamo raccontate la nostra vita. Per esempio, ricordo che decíamo sì hombre, no hombre. Per esempio, mi ricordo che dicevamo sì uomo, no uomo. Questo voleva dire teníamos pareja, no teníamos pareja. Questo voleva dire che avevamo una un partner o non avevamo un partner. Bueno, y todo era así, con sí o con no, con las pocas cosas. Y luego Nesla retornó a Alemania, yo a la Argentina. Tutto era così, con sì e con no. E poi Nesla è ritornata in Germania e io in Argentina. Y dopo continuamos parlando por teléfono. Que... E poi abbiamo continuato a parlare per telefono. Que... Lo único que podíamos decir cuando ella llamaba, yo decía Nesla. Lo único que riuscivamo a dire cuando lei chiamava, io dicevo Nesla. Ella decía Muno. E lei rispondeva Muno. E dopo pinta o no pinta. Poi dicevamo dipinge o non dipinge. E tutto así, ¿está bien o no bien? E poi ancora, bene o non bene? Anche io he ido a su pueblo. E io sono anche andata al suo paese, al suo villaggio. La he visitado, he estado con ella dos días. E gli ho fatto una visita, sono stata con lei due giorni. Y hemos hablado todo el tiempo. E abbiamo parlato tutto il tempo. Esta es la bellissima storia con Nesla. Questa è la bellissima storia. Allora, questo splendido incontro, questa splendida ora è veramente volata, almeno per noi, speriamo anche per tutte voi. Ringraziamo Munu assolutamente, grazie. E un grazie triplo anche a Monica, che è stata superlativa nella traduzione simultanea. Quindi noi, così come stiamo, vi salutiamo e la nostra trasmissione andrà in replica la settimana prossima. Non andrà in replica, mi fa Caterina cenno di no con la testa, non andrà in replica, non sappiamo. La settimana prossima, quando arriveremo, vedrete che cosa succederà. Quindi in questo momento vi salutiamo tutte noi, e cioè a questo punto Caterina con Elena e Francesca, che stanno facendo le prove di trasmissione. Io che sto qua, Lucilla, che vi saluto... e che non voglio imparare a fare la fonica, e vi mandiamo un ultimo pezzo. Gli appuntamenti purtroppo non ce la facciamo a darveli, però andate sui vari siti, potete leggerli anche voi. E adesso c'è un pezzo musicale che è dame tu fuerza di Fortuna, e arrivederci a martedì prossimo.